Sapevo che sarebbe arrivata, e infatti eccola qui. La crisi, presto o tardi, arriva sempre quando comincio a fare qualcosa. Non è quella del secondo giorno, che è più che altro un'incertezza del passo. No, questa è proprio crisi. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. 16:08 minuti, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e io sono qui. Pronto Bordone? Sì. Ciao, sono il Caccia. Ciao Caccia. Ti disturbo? No, figura. Scusa un attimo, ma se sta trottolina continua a girare? No, perché sono un po' fermo su sta scena finale. Se sta trottolina continua a girare, allora, se gira è un sogno e va bene, ma a me è venuto pure il trip che il sogno sia di lei, siccome lui va nel quarto strato del sogno, no? Sogna di sognare che sogna di sognare, giusto? Sì. E c'è questa specie di limbo, che loro chiamano così, in cui se ci muori non ci torni più. Esatto. E se ci muori non torni più indietro. Ok. Quindi... Non può essere un sogno di lei, perché lei è rimasta dentro al limbo. No, ho capito, però tutto potrebbe essere un sogno di lei. No, questa è una cazzata. Vabbè. Che tutto sia un sogno di lei è un'eventualità matematica, che fa completamente perdere sostanza alla ragione ultima della del film e della storia. Per cui tu puoi dire, dal punto di vista teorico, visto che noi non perdiamo il senso della realtà, possiamo ipotizzare che tutto sia un sogno di lei. Però noi almeno al primo strato di narrazione dobbiamo arrivare. Credere. Va bene, però scusami, quando lui taglia, lui volutamente fa... truc da un taglio netto alla fine, no? Perché altrimenti, se lui avesse voluto farti credere che quella continuava a girare, andava in dissolvenza. No, è un film, Matteo, non sta raccontando una cosa che è successa davvero, vuole lasciare a metà la cosa. Va bene. Vuole che lo spettatore, se è realista e pessimista, pensi, dopo tutto quello che è successo è andato tutto così liscio. Mm-hmm. Se invece uno spettatore a cui piacciono i film tipo Ocean's 11, Ocean's 12, va bene. Mm-hmm. Però non c'è niente che faccia pensare realmente che si tratti di un'illusione. Se vuoi una lettura ancora più carina, loro dicono, quando finisci dentro al sogno, la realtà ti sembra una banalità stupida. Forse è così. Va bene, dai, vado, va. Ciao Bordo. Ciao. Fai una puntata. Fai una puntata su questo. Ciao. C'è una cosa che deve sapere. Sono esperto di un tipo di sicurezza molto specifico. La sicurezza del subconscio. Stiamo parlando di sogni. Perché avere degli amici che sono esperti di cinema, che hanno studiato cinema, che sono laureati con 110 lode in storia del cinema, alla fine a qualcosa serve. E serve che se te vai la domenica pomeriggio a vedere un film e ne esci completamente intrippato, lo chiami e gli chiedi: scusa, ma com'è questa storia della trottolina che gira? In sostanza, se non avete ancora fatto, se non siete ancora andati al cinema a vedere questo film che si chiama Inception, non so cosa stiate ancora aspettando, uscite e andate. Sono le 16:11 minuti, ieri erano più o meno le 16:11 minuti quando entravo a vedere questo film, che è un film, non verrò a parlare al video di questo film ovviamente prima, perché l'ha già fatto il buon Franco D'Assisti nella Rosa Purpurea e perché non sono un esperto di cinema, come il mio amico Matteo Bordone, che invece ha spiegato perfettamente perché è nato quel film e che cosa voleva dire. Però insomma, Christopher Nolan è uno che ha fatto i più bei film degli ultimi probabilmente 10 anni. Diciamo 10, Bonini. 5, no, facciamo 10. A partire da Memento per arrivare fino agli ultimi Batman, che comunque erano dei film meravigliosi. Se avete voglia di intripparvi completamente con la storia che sognare, si sogna la realtà e la realtà è un sogno e praticamente viene fuori un thriller, un film d'azione usando Freud, andate a vedere questo film, oltretutto c'è Leonardo DiCaprio. Insomma, ci sono tutte le robe giuste per far sì che un film sia bello e che anche se dura 2 ore e un quarto, credo. Vittoria, dura 2 ore e un quarto, anche tu l'hai visto ieri. Insomma, ve lo bevete come se niente fosse. Radio 24 800 24 0024 349 238 6666. Non è effettivamente il film adatto da andare a vedere se si è un po' in crisi, perché appunto comincia ad avvitarti in questa questione del ma cosa staranno facendo, quindi sarà tutto un sogno, quindi se sta trottolina gira ancora forse è tutto vero. Non è proprio il film adatto, però avevo bisogno di distrarmi, perché provate voi a vendere tutto e a decidere di dire solo la verità e vero che non mi obbliga nessuno, però vi assicuro che un momento di crisi prima o poi arriva. Poi, tra l'altro, visto che appunto ci sono dentro, ieri mi sono messo a cercare, ci sono una marea di crisi. Cioè non è che ce n'è una, due, non sto parlando della crisi economica, ovviamente non entrerei mai nel merito, lascio a Barisoni tutto il tempo e tutto lo spazio. No, no, sto proprio dicendo che a partire dalla preadolescenza, poi quella adolescenziale, poi la crisi dei 30 anni, la crisi dei 40, la crisi dei 50 anni, adesso pare anche la crisi dei 60, dover chiedere ai miei che ci sono dentro. Poi c'è la crisi del settimo anno se sei in coppia, c'è la crisi prematrimoniale, c'è quella postmatrimoniale, che poi va giusto, c'è la crisi da menopausa, c'è la crisi da andropausa anche, giusto? 800240024 349-238-6666. Ne siete usciti, perché poi prima o poi si esce, ok? Mi raccontate come avete fatto, ma soprattutto, qualsiasi fosse la crisi, quella crisi lì, magari dovete pure ringraziarla. Io spero tanto che sia così, in questo caso. Perché quando esci e la guardi da lontano e ti accorgi che hai sterzato da una parte e lo hai fatto anche grazie a quella crisi, alla fine forse ti viene da dirle grazie. 80024 0024 349 238 6666, qualsiasi essa sia, che sia una crisi sentimentale, che sia stata una crisi professionale per cui sareste rimasti ancora in quel posto di lavoro orribile se non ci fosse stata quella crisi, ma anche una crisi economica per cui magari quella roba lì non tirava più, avete cambiato e adesso siete briatore. 80024 0024, quel brutto momento di crisi che anche tu hai avuto, non credo lui ne abbia, vabbè, come no, lui è stato cacciato dalla Formula 1, insomma, quella crisi da ringraziare ci sarà, l'avrete passata e adesso state meglio. 80024 0024, oppure 349 238 6666. Allora, ad esempio, prima su Facebook mi scrivevano: Alessandro, le crisi non esistono, sono solo stati mentali, sta a noi trovare la forza di affrontarli. Boh. Fulvio: credo si proceda per crisi, la crisi è evoluzione. Ed è subito filosofia qui, Le crisi, Silvia scrive, le crisi come gli eventi catastrofici sono la maniera che la storia ha trovato per correggere la rotta degli eventi. Anche qui sempre ramo filosofia. Giulia: mi sembrano Giulia deve essere o maestra o professoressa. Mi sembrano ottime scuse per nascondere la propria insicurezza e la scarsa capacità di rimettersi in discussione. Credo che ci sia pochissima voglia di crescere e il totale rifiuto di prendersi delle responsabilità, con tre punti esclamativi. D'altronde gli esempi che ci passa questa società non ci aiutano per nulla, no dai, però la colpa alla società basta, l'abbiamo già data a sufficienza. 80024 0024 349 238 6666. Anzi, più piano, perché mia zia Mina mi ha detto che lei vorrebbe telefonare ogni tanto ma non riesce perché lo dico troppo in fretta. Zia, segnatelo sul cellulare, lo memorizzi. 80024 0024. Siete usciti da una crisi, dovete ringraziarla, questo è il numero da fare. 80024 0024. Sì, lo sapevo. Sapevo che sarebbe arrivata e infatti eccola qui. Non c'è niente da fare, la crisi presto o tardi arriva sempre quando comincio a fare qualcosa. E non è quella del secondo giorno che è più che altro un'incertezza del passo, no, no, questa è proprio crisi. Dunque, l'anno scorso ho venduto tutto, ma tutto tutto. Cioè, nel senso che non ho più niente. E non che prima di farlo, dico, fosse bello. No, è però ora ho proprio questa sensazione che mi sento completamente solo. Alla fine liberarsi delle cose vuol dire liberarsi di chi si era attraverso quegli oggetti. E io non ho più niente. Sì, lo so che ho passato 6 mesi interi l'anno scorso a dire che gli oggetti sono solo oggetti, però potrò avere un ripensamento, no? Uno. Ecco, ce l'ho adesso. Ci sono dei momenti in cui mi fermo a riflettere sul senso delle cose. Non so se vi capita mai. Solo che quando comincio a farlo, è finita. È un po' come Ci vuole un fiore, la canzone di Rodari, avete presente, no? Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme. E dire che è facile anche. Per fare il frutto ci vuole il fiore. Da 30 anni sta canzone. Di più di 30. Per fare un tavolo ci vuole un fiore. Ecco, è esattamente come questa canzone qui, quello che mi capita, però è il contrario. Cioè, invece che aprirmi a cercare di capire come funzionano le cose, mi chiudo e tolgo senso a tutto. Solo che se nulla ha senso, allora non vale la pena di fare nulla. Cioè, non valeva la pena liberarmi del mio passato. Però se non valeva la pena liberarmi del passato, non vale nemmeno la pena ricominciare da capo. E ha voglia pensare alla storia che la parola crisi in cinese è un ideogramma composto da due termini che significano pericolo e opportunità. Hai voglia, queste sono cose buone per quando stai bene, mica per quando sei davvero in crisi. Ecco, in questo momento mi sento un po' come un San Bernardo a cui hanno rubato la fiaschetta della grappa. Quella con la crocetta rossa che tiene sotto il muso. Anzi, come un San Bernardo che ha venduto la sua fiaschetta della grappa e quindi non ha più senso, cioè non può più andare in montagna a infilarsi nelle valanghe e cercare gli alpinisti. Anzi no, meglio ancora, un San Bernardo che ha venduto la sua fiaschetta il giorno in cui hanno inventato l'indicatore satellitare antivalanghe. Ecco, visto che voglio raccontarvela sempre tutta, ora vi faccio sentire una cosa. Settimana scorsa ero in casa da solo, ero ospite, e questi sono gli appunti che ho registrato. Sono le 19.09 di giovedì 23 settembre 2010. Sembro veramente un imbecille. C'ho 35 anni, non c'ho una casa, non c'ho una fidanzata, non c'ho un divano, non c'ho una minchia di bicicletta. C'è gente che alla mia età c'ha già moglie e figli, c'ha la station wagon, c'ha la casa in montagna. Che pirla. Sto registrando degli appunti da mandare in onda in un programma radiofonico chiuso nel bagno dell'amico che mi ospita. Cioè, se lo raccontassero da fuori a me, direi che quello è un cretino. E in tutto questo ho pure deciso di dire sempre la verità. Grande idea. Cioè, che praticamente metà delle persone che conoscevo mi odiano. Non lo so, forse pure questa è una boiata. Sono 19.10 e giovedì 23 settembre 2010. Perché alla fine, chi è che determina davvero una scelta? Io ho sempre pensato di essere l'unico responsabile delle mie azioni, delle mie decisioni. Ho sempre immaginato di poter governare quasi tutti gli accadimenti della mia giornata. Ho sempre pensato che il destino non esista, che non esiste il determinismo, che le cose non sono regolate da un flusso di eventi incomprensibili e irrevocabili, e che il libero arbitrio non è una possibilità, è una missione. Quindi a partire da gennaio mi sono messo a vendere oggetti come un Robby vecchio al mercato. L'ho scelto io, Ho incontrato un sacco di persone simpatiche che quei pezzi se li sono comprati, anche se non saprei bene dire il perché. Ho stilato una lista di desideri da realizzare e la prima cosa che ho realizzato è stata che a 34 anni ancora non avevo fatto un sacco di cose che mi sarebbero piaciute. Anzi, prima ancora ho capito che non avevo nemmeno bene presente quali fossero i miei desideri. Nel senso che ci ho dovuto pensare un po' per buttar giù quell'elenco. E ogni giorno raccontavo una storia e ogni giorno vendevo un oggetto. Ma perché? Mi sento veramente un cretino. Cosa si fa per uscire da una crisi? Cioè, voglio dire, bisogna pensarci su, bisogna lasciar correre, bisogna fare altro. Proprio non lo so. Cioè, non in questo caso almeno. Il motivo è chiaro. Cioè, il fatto di non possedere niente è una sensazione straniante, è eccitante da un certo punto di vista, però è devastante dall'altro. Ad esempio, non puoi mai usare aggettivi possessivi. Non puoi mai dire mio, mia, mie, miei. Non puoi fare affidamento su niente. È un po' come un attore che recita su un palco senza scenografia. Non ha appigli, non ha nulla a cui appoggiarsi. È tutto molto più difficile, anche se in realtà sembra più semplice. Non ti preoccupi delle multe perché non hai l'auto. Non pensi ai programmi della serata perché non hai la TV. Non puoi sdraiarti nemmeno su un divano perché uno tuo non ce l'hai. Una volta, mi ricordo, ho sentito un'intervista ad un clochard. Diceva che la sua vita è la massima espressione di libertà. Boh, se lo dice lui. Un amico con cui parlavo l'altro giorno invece sosteneva che spesso le scelte che facciamo sono autoindotte. Cioè, noi decidiamo di fare una cosa e da lì iniziamo a forzarci a fare tutte quelle cose intermedie che portano all'obiettivo finale. Anche se non ci piacciono, anche se quelle cose non ci convincono. Quindi, secondo lui, io mi sarei autoindotto di vendere cose che non avrei mai voluto vendere, di raccontare storie che non avrei mai voluto raccontare, pur di raggiungere l'obiettivo ultimo, quello di rimanere senza nulla. E lui sostiene che ora, se voglio ripartire, devo decidere una cosa e autoconvincermi che quello che sta in mezzo tra me e quella cosa sia utile a raggiungerla. E forse ho capito cosa mi serve. Ed è molto più semplice di quanto immaginassi. In realtà va contro l'idea pseudo-romantica dello stare ospite senza mai avere una dimora. Però è il primo passo per poter davvero dire: io sono qui. Ecco cosa devo fare. Mi devo mettere a cercarmi una casa. Prego, dimmi qual è il film che hai mandato alle 16:10. Si chiama Inception ed è un film di Christopher Nolan, è uscito venerdì, vallo a vedere Massimo. Sebastiano mi scrive: è la crisi dei 70? Pure la crisi dei 70, cioè ragazzi, non se ne esce più, tra un po' cominciano anche quelle delle 5 e 35, 45, 55. Tu ragioni da donna, per me sei un finocchio in crisi. Ciao Sergio. Dopo 10 anni di convivenza ho cambiato ragazzo, lavoro, amici, valori. E viva la crisi! 800240024, se c'è una crisi che dovete ringraziare perché vi ha fatto cambiare strada. Matteo, la nostra crescita procede a gradini. Siamo belli tranquilli finché un giorno non arriva la crisi. Superarla significa salire il gradino. Grazie Angelo. Io entro in crisi ogni volta che penso all'universo. Mi immagino di vedere la Terra dalla Luna. Sta roba è terribile, anch'io non posso pensarci. Poi la Luna dal Sole, poi mi perdo nell'infinito. Pensare all'infinito è una roba che ti manda di fuori. Prova. Aspetta che provo un attimo. No, vai. C'è la mitica crisi dell'universitario medio che si intrippa per mesi con un singolo esame e pensa di lasciare. E poi Lino Gargiulo da Avellino mi scrive: per favore, signor Matteo, mi spiega cosa significa intripparsi? Credo che derivi da trip, da viaggio, per cui uno entra in un viaggio che lo porta in un altro viaggio e non torna più indietro, più o meno. Secondo me l'unica cosa chiara è la borsa e poi torniamo. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto c'è una giovane donna. È la prima volta che c'è una persona in una foto. È una giovane donna che è sdraiata per terra, seduta per terra, con in braccio un cane. Anche il cane è una femmina perché si vede la pancia. È seduta con le gambe incrociate, abbracciando questo cane su un prato, cioè l'erba appena tagliata. Però è un prato di campagna, non è un prato di una casa, perché in fondo al limitare del prato c'è un murettino molto basso e poi un campo di grano turco o di mais. Le piante di grano turco sono abbastanza alte, quindi deve essere la fine dell'estate, potrebbe essere fine agosto o magari metà agosto. Lei tiene abbracciato questo cane che è bianco e nero, un cane abbastanza grosso, e lo sta baciando sul muso, direi, cioè spero non sulla bocca. Lei ha addosso una magliettina bianca molto corta, ha i capelli legati in una piccola coda, ha i capelli scuri e ha un viso sorridente. Ha su degli stivali da campagna verdi con la suola bianca, quindi probabilmente qualcuno che ci lavora in campagna, perché quegli stivali non ce li hanno tutti. C'è un gran sole in tutta la foto e c'è anche tanta gioia nella foto. Io sono qui con i miei cagnacci, sono Elisa ed insieme a mio marito Alberto alleviamo American Staffordshire Terrier. Loro sono la nostra vita, noi siamo qui con loro. C'è questo profilo Facebook che si chiama Matteo Caccia, io sono qui, e se voi avete voglia di mandarmi una foto come ha fatto in questo momento Elisa, non l'ha fatto adesso, l'ha fatto credo una settimana fa, e come hanno già fatto un centinaio di altre persone, io le raccolgo in questo album che si chiama E voi dove siete. È un motivo molto semplice: visto che ogni giorno ve la meno con io sono qui, io sono qui, io sono qui e vi racconto dove sono, mi piace anche sentire dove siete voi, mi piace vederlo e poi raccontarlo, e quindi basta che inviate una foto al profilo Facebook Facebook Matteo Caccia, io sono qui, io la sbatto in questo album che si chiama E voi dove siete, e poi con calma ogni giorno ne racconterò una, perché è un modo così per guardarsi da fuori e per capire dove si è. Qui ad esempio Elisa è con il suo cagnaccio, come dice lei, che effettivamente l'American Staffordshire Shire, io credo fosse un po' che questo sembra tipo un pitbull, forse è la stessa roba, non lo so, per uno che non ne capisce niente è molto più facile. Matteo Caccia, io sono qui, oppure anche io sono qui @radio24.it, 800240024, oppure 349-238-6666. Se siete entrati in una crisi, ne siete usciti e adesso la guardate anche con un occhio diverso. Caro Matteo, mi scrive Betta, eri già in crisi prima. Aspetta, Betta mi sta spiegando esattamente cosa mi è successo. Eri già in crisi prima, quando hai deciso di vendere tutto. Si chiama acting out, fare per non pensare. Ora che non hai più niente da avere, devi pensare per forza a cosa sei. Parti da lì, qualcosa di buono ci sarà dentro di te. Speriamo. E allora farai, avrai solo cose coerenti con te. Un abbraccio, Betta. Grazie, Betta. Gente però che in una crisi c'è entrata e ne è uscita, c'è. È all'800240024 e sentiamo che cosa da raccontarmi. Andiamo a Cremona, anzi dalla provincia di Cremona con Giusy. Pronto, Giusy? Ciao Matteo. Ciao. Allora, io adesso non sono a Cremona, ma sono sulla Serra Valle. Dove comunque. Sei verso dove? Verso Genova? Sì, verso Genova, faccio la camionista. Fai la camionista? Sì. Ma di che tipo di camion? TIR, trasporto merce pericolosa. Ma da quanto lo fai, scusami Giusy? 16 anni. Ma che tipo di merce pericolosa? Cosa intendi per merce pericolosa? Di tutto, infiammabili, corrosivi, tossici, di tutto. Ma tu non c'hai a che fare con sta roba, tu la trasporti e basta. No, carico anche io. Cioè, non carichi? Sono, sì, sì, nelle raffinerie, cioè tuta, elmetto, protezione. Giusy, scusami, non si chiede mai, però a questo punto te lo chiedo, quanti anni hai tu? Allora, io ne faccio 48. Allora, mi sono separata a 33 anni e ho lasciato tutta l'attività, quello che era mio ex marito, perché era un uomo che brontolava sempre. Che attività era? Di trasporti, ma io non ho mai guidato i camion, però, Certo. Ho fatto la badante per farmi le patenti e ho deciso che volevo salire sul camion perché era l'unico modo per non dipendere da nessuno. E ho superato questa fase, ma nel senso che io difficoltà ne ho passate tante, però diciamo che ho sempre visto tutte le cose negative, ho sempre visto le cose positive, nel senso che sono sempre diventata più forte, perché se ci fermiamo sempre le prime paure siamo lì, non ci muoviamo. Quindi più. Tu adesso comunque guardando dietro hai la sensazione che qualcosa di buono sia successo? Sì, ma addirittura nel senso che comunque, vabbè, ho un bagaglio che io ho girato mezza Europa, nel senso che non avrei potuto mai farlo. Ma per lavoro? Modo. Per lavoro, sempre chiaramente. Per lavoro, però diciamo che comunque ho avuto sempre dei momenti che ho potuto visitare anche delle città. Beh, immagino. Ma scusami un attimo, Giusy, perdonami, qui viene fuori proprio tutta la parte da ragazzino con il trattore. Che camion è? Che tir è? Che modello è? Allora, io adesso ho un Iveco Stralis 450. Quanti cavalli ha una roba del genere? 450. Ah, beh. Che... Perdonami, il ragazzino col trattore non ne sapeva moltissimo, evidentemente. Però diciamo che allora io credo che sono anche l'esempio per mio figlio, no? Io ho un figlio di 20 anni e ho anche una figlia più grande che è disabile, perciò diciamo che io ne ho tante. Ce ne hai, direi. Nel senso, ne ho tante. Però io tutte le mie persone che mi conoscono, amici, tutti mi chiamano sempre che sono... mi chiamo mamma solo, zia sole, perché comunque io trasmetto queste cose, l'energia che ho. Chiaro, ma guarda, che arriva tutta, Giusy, ti assicuro che arriva tutta. Senti, dov'è che stai andando in questo momento, quindi a Genova? Ma adesso no, vado a prendere solo un rimorchio al porto, poi perché mi dicono momento per momento, perché io sono rientrata dalla Spagna sabato. Per lavoro sempre? Sì, sempre per lavoro. Ma diciamo che io il centro di Barcellona ho visitato più sempre per lavoro, perché in camion. Aspettavo la nave. In camion? Com'è? In camion, cioè giravi per il centro di Barcellona? No, anche col trattore ci sono andata, però nei posti dove non ti fai mancare girare. Niente. Senti... Io sono andata anche con il trattore sulla spiaggia, sempre vicino alla Spagna, nel senso a dormire sulla spiaggia col trattore, perché sganciavo il rimorchio e andavo con il trattore. Quindi tu adesso vai a Genova e la prima roba che ti danno da caricare, tu la agganci, come funziona? La agganci o te la caricano sul rimorchio? No, a Genova ci sono già dei rimorchi che sono già carichi. Già pronti, quindi devi solo agganciarla. Perché è sempre un rimorchio che ho imbarcato io venerdì. a Barcellona, adesso lo vado a prendere, che è sempre un immobile che io che ho caricato io. No, non ho capito, scusami, no, scusami, cioè tu da l'hai portato in porto a Barcellona, lui sì, è partito da Barcellona. Perché la mia ditta comunque fa cabottaggio e comunque altri rimorchi là che posso comunque. Ma adesso prendere. Stai guidando o sei ferma? No, sono ferma, sono ferma. Di la verità. No, sono ferma. Ah, ma e dove, no, sei, dove sei ferma? L'autogrill? Sì, sì, mi sono Senti, fermata l'autogrill. Ascolti sempre, sì, sì, certo, Giusy, si sente che sei fermata l'autogrill. Tu ascolti sempre Radio 24 o ascolti qualcos'altro anche? No, e quando è possibile Radio 24, nel senso, è perché purtroppo io sono quasi sempre fuori e non... Sei sempre lì, ma ci dormi anche sul camion? È sempre, per forza che ci dormo, però diciamo che... Per me è una fortuna perché ho imparato molto a leggere molto, nel senso che con il camion sono riuscita a leggere molto, a scoprire tante cose. Nel cioè, senso ma che... non passi mai da Milano, Giusy? Sì che ci passo per Milano. E passa di qua allora una volta. Va bene. Va bene. Giusy, grazie mille, se no altrimenti sto al telefono con te fino alle 6 del pomeriggio. Ciao, buona sì, giornata, grazie. Ciao, abbraccio, ciao, grazie. Ciao, ciao. Andiamo a Lucca da Gianluca. Scusami, Gianluca, scusami, stavo veramente per fare una battuta orribile, te ne chiedo scusa. Non è grave. Che era andiamo a Lucca da Gianluca, l'ho fatta? A posto. Vai subito, raccontami tutto. Allora, molto semplice. Sì. Io sono una di quelle persone che non si abbattono mai, che rinascono sempre e vincano sempre. Ci fu un periodo della mia vita nel quale mi cominciai a preoccupare quando i gatti neri che stavano per attraversarmi la strada. Ma che lavoro fai, Gianluca, tu? Fai anche tu il camionista? No. Ah, ok, ok. Mi guardavano, toccavano le palle e giravano indietro. Ok, va bene, lì hai cominciato allora, a capire cominciato che c'era qualcosa che non andava. Come hai fatto ad uscirne, Gianluca? Ma, cioè, io continuai nel famoso discorso, quando sei l'acqua, per non dire peggio, sì. Nuoti, no? Ok, e sei messo a nuotare. Ne sei uscito? Allora, un bel giorno stavo rientrando a casa e sulla mia strada c'erano 5 semafori che regolarmente beccavo tutti e 5 rossi. Sì. Quel sempre giorno? Rossi. Quel giorno ho beccato il primo verde, il secondo verde, il terzo verde, il quarto verde e il quinto verde. Voilà. A quel punto ho detto, è iniziato il verde millennio. Grazie mille Gianluca, buona giornata. Ciao, alla prossima. Mi scuso con Giuliano dalla provincia di Vercelli, ma ci sarà un'altra occasione sicuramente. Io saluto tutti, saluto Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Vittoria Mussini e Alessandro Genovesi. Io oggi ho finito, però oggi ho cantato tutto il giorno la stessa canzone, meglio che non ve la faccia sentire. Oggi ho fatto la spesa, ho comprato un libro e un paio di scarpe, ma soprattutto ho deciso di cercarmi una casa. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi, dove siete?